prima edizione. E 13 minuti, un paio di notizie prima di dare la linea alla viabilità. Innanzitutto una che arriva dal Giappone, che ha giustiziato 3 condannati a morte, la prima esecuzione dal luglio del 2010. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa Kyodo. Da quel che si apprende, almeno un condannato sarebbe stato impiccato. Il ministro della giustizia, che deve dare il suo consenso prima di ogni esecuzione, non ne aveva disposta alcuna da 20 mesi. L'altra notizia riguarda la navetta europea senza equipaggio, la Edoardo Amaldi, che si è agganciata al modulo russo della Stazione Spaziale Internazionale. La manovra è stata eseguita in modo naturalmente completamente automatico, come previsto, essendo senza equipaggio. Le 6,5 tonnellate di carico che la navetta trasporta vanno dagli spazzolini da denti e dei dentifrici per gli astronauti agli abiti di ricambio, dall'acqua prodotta a Torino al nuovo sistema di ventilazione per il laboratorio europeo Columbus, fino all'aria e al propellente. Prima edizione. minuti e 45 secondi. Andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, un'occhiata generale come sempre a quest'ora, e poi naturalmente approfondiremo alle 7:15, 7:20 circa in realtà, con il nostro Alessandro Milan e la sua rassegna stampa. Le aperture dei quotidiani sono, come potrete immaginare, in linea di massima dedicate alla alle questioni politiche e al rapporto tra Mario Monti e i partiti. Il Corriere della Sera, tensione tra Monti e i partiti. La Repubblica, lavoro e giustizia, le mosse di Monti. Il Premier, voglio unire non dividere. E Bersani che dice insieme o cazzotti per tutti. Si discosta la Stampa, che presenta un titolo in quella che tecnicamente viene definita la falsa apertura, ossia un titolo più piccolo, per così dire, in alto sulla prima pagina, ed è dedicata a Monti che sferza i partiti o il consenso degli italiani, loro no. E però il titolo forte di prima pagina, e che è al centro, è quello a caratteri più grandi, per intenderci, è dedicato al Papa. Il Papa vede Castro più libertà. Incontro di mezz'ora. Ratzinger, sono anziano ma posso ancora fare il mio dovere. Anche il Messaggero apre sull'affondo di Monti contro i partiti. Allora andiamo a vedere un po' nel dettaglio che cosa troviamo. Sul Corriere della Sera un editoriale a firma di Pierluigi Battista intitolato "Troppe parole fuori registro", le frasi del Premier e di altri. E sempre il Corriere della Sera, come anche qua lo fanno molti quotidiani oggi in edicola, dedica un titolo di taglio centrale allo scrigno italiano dei Gheddafi. 1 miliardo in azioni e 2 moto, la finanza sequestra i beni su richiesta del Tribunale Internazionale. Stefano Agnoli firma un pezzo nel quale parla della caccia ai beni di Gheddafi e dice: ma il grande tesoro resta nascosto nei paradisi fiscali. A centropagina anche la vicenda, ve ne parleremo più ampiamente naturalmente all'interno del giornale radio, del malessere delle tasse. Il malessere delle tasse e quei gesti estremi. Si parla di un uomo che ieri, inarretrato con il fisco, ha deciso di darsi fuoco all'interno della sua auto davanti a una sede, davanti alla commissione tributaria di Bologna. Un uomo di 58 anni, il titolare di una piccola impresa. Questa la storia alla quale, tra l'altro, dobbiamo segnalare, il giornale dedica l'apertura. Il giornale, l'apertura è "A fuoco per le tasse. Un artigiano si dà alle fiamme davanti all'Agenzia delle Entrate. In fin di vita, il fisco sta uccidendo il paese. L'urlo dei piccoli imprenditori. Siamo eroi. però non ce la facciamo più. Questo il quadro per quanto riguarda questa storia. Il Corriere riporta in prima pagina anche la vicenda del giudice arrestato che ieri per 'Ndrangheta, corrotto con le escort, il giudice arrestato fu assolto dal CSM. Questa è la storia, naturalmente titoli dedicati anche a Milan-Barcellona. La Repubblica, lavoro e giustizia, le mosse di Monti, si diceva all'apertura. Da Tokyo il primo ministro prepara i dossier più caldi per il governo, sindacati in piazza il 13 aprile, Napolitano che dice nel paese non vedo esasperazione. A centropagina un titolo dedicato al Papa. Di taglio basso la vicenda di Emilio Fede. Mediaset licenzia Fede, è lui che dice è un complotto. La Stampa, come si diceva, ampio spazio al Papa e un commento di Enzo Bettiza, la missione cruciale del pontefice, di questa visita del Papa e dell'incontro con Fidel, parleremo tra poco. C'è anche, insomma, ve ne sarete accorti girando nelle città, che fa piuttosto caldo per essere fine marzo. Ebbene, caldo anomalo, clima è già un anno da record, ci informa Luca Mercalli dalle colonne della Stampa. E poi sulla visita di Monti e sulle parole di Monti c'è da segnalare il retroscena. Silvio Berlusconi parla, che dice sta con il premier, ha ragione, ma Casini, il professore esagerato e inopportuno, e riparte la discussione sul cosiddetto partito del presidente. Da segnalare sulla Stampa anche la vicenda di Lusi, si torna sulla vicenda di Lusi, le ville, un investimento per la Margherita, l'interrogatorio dell'ex tesoriere, un patto spartitorio fra rutelliani e popolari. Si diceva dei problemi di Monti con i partiti, il Sole 24 Ore naturalmente titola su questo, come è naturale. Poi più avanti sentiremo anche il corrispondente, l'inviato del Sole 24 Ore al seguito del Presidente del Consiglio, che ci racconterà anche un po' che cosa si prevede per il proseguio di questa visita. Dal Sole 24 Ore su questo tema vogliamo segnalarvi l'ottimo e interessantissimo commento punto di Stefano Folli di oggi, che si intitola L'insofferenza e i suoi perché, e nel raccontare queste ultime 48 ore nelle quali il Premier si è sentito quasi in dovere di ribadire due volte la sua forza rispetto ai partiti, Stefano Folli dice anche questo: se Monti vuole fotografare la perdita di credibilità dei partiti al di là dei rilevamenti demoscopici, non ha che un mezzo: presentare una sua lista alla prossima primavera e provocare un serio smottamento degli equilibri parlamentari. E Folli nota anche che il Presidente del Consiglio ha più volte detto che non ha alcuna intenzione di presentarsi per la successiva fase politica, aggiunge però: eppure le frasi contro i partiti lasciano intendere che non tutto è chiaro nella storia dell'esperimento Monti, nel suo rapporto con la pubblica opinione e nella sua prospettiva politica. Il 2013 è lontano e molte cose devono ancora accadere. Così Stefano Folli sul Sole 24 Ore. L'apertura del quotidiano invece è dedicata alla guida al nuovo risparmio, perché sono state diffuse le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modifiche. Fondi, azioni e conti correnti, ecco come cambiano le tasse. Prelievo a quota 20% a partire dal 1 gennaio del 2012. Il Sole 24 Ore presenta anche un dizionario, il dizionario dall'aliquota ai titoli di Stato, le parole chiave per investitori e risparmiatori, e il punto, c'è anche uno schema abbastanza chiaro in prima pagina dedicato a come cambiano le cose, però come si diceva c'è ampio spazio. L'editoriale di prima pagina è dedicato alla parte, se vogliamo, anche più economica del viaggio di Monti, anche se non esattamente a questo. Italia e Asia, la via da seguire, investimenti e sviluppo. tempo, è un commento a firma di Adriana Cerretelli. Sulla vicenda di Gheddafi, ampio spazio anche qua al sequestro dei beni di Gheddafi in Italia, vi segnaliamo il commento di Carlo Marroni, l'analisi di Carlo Marroni, quell'intreccio Tripoli-Piazza Affari, e si parla dei legami finanziari. E poi è stato presentato il preliminare del progetto della TAV, piano per la nuova Torino-Lione, la linea ridotta a 18 chilometri. Segnaliamo anche in tema finanziario, dal Sole 24 Ore, la vicenda che sta andando avanti appunto da qualche tempo, lo sapete, la vicenda di Fondiaria Sai, ci sono anche delle code giudiziarie, come vi abbiamo raccontato anche nei giornali radio di ieri. Il Sole parla delle tensioni al vertice di Fondiaria Sai, l'ex impero di Ligresti, Ionella Ligresti resiste al pressing delle banche sulle dimissioni. Questo il quadro per quanto riguarda il Sole 24 Ore, che dedica anche spazio ovviamente alla visita del Papa all'Avana. Ci sono altre due cose che vi vogliamo segnalare, che in questo caso arrivano dal Messaggero. Innanzitutto vi segnaliamo che anche il Messaggero riporta il retroscena su Berlusconi. Berlusconi apprezza lo strappo. Il professore ha ragione sui sondaggi, ha ragione, i partiti non superano il 4% addirittura. Questo l'umore di Silvio Berlusconi, che ieri dice non era dei migliori, ma non certo per le esternazioni giapponesi del Presidente del Consiglio, quanto per le ore trascorse con gli avvocati per preparare le prossime udienze per gli intrecci con l'affair Emilio Fede. E però dal Messaggero, diciamo, vi volevamo segnalare due vicende di cronaca. Il caso, la rapina in villa, orrore nel Viterbese, professore massacrato a colpi di spranga. C'è la vicenda, anzi tre storie di cronaca. C'è la vicenda del calcio scommesse, che è entrata nel vivo e ha colpito direttamente il cuore della Serie A. Venerdì 13 aprile infatti saranno ascoltati Mauri e Brocchi, due giocatori della Lazio. L'avvocato dei biancocelesti nega però un coinvolgimento del club. E poi una storia, ve lo ricorderete, il cosiddetto Madoff dei Parioli, Gianfranco Lande, che aveva truffato molte persone. Il Messaggero ci racconta: io, il frate delle beatificazioni, ho dato a Lande 2 milioni di fedeli. A proposito, ecco, di quotidiani con aperture diverse, si diceva del Giornale che dedicava la sua apertura a fuoco per le tasse. Beh, vi diamo anche la visione di un paio di giornali politici su anche sulle parole del Presidente del Consiglio. Il titolo dell'Unità è piuttosto forte, perché il titolo è Mal d'Oriente sulle parole di Monti. L'Unità dedica anche un titolo al ritorno dell'unità sindacale in piazza per le pensioni il 13 aprile. E presenta anche un'intervista al vice segretario dell'Ocse, Piercarlo Padoan, che abbiamo sentito ieri nei giornali radio, che però in questo caso parla di corruzione. Attenti, è la corruzione che frena l'Italia. Questo per quanto riguarda l'Unità. Vi diamo così, insomma, anche la visione della Padania. Scacco al Parlamento, Monti come Mao, la legge sono io. Prima edizione. Le 6:35 minuti e 30 secondi, tra poco torneremo sulla visita del Presidente del Consiglio Mario Monti in Estremo Oriente, ma prima di tutto Italia in controluce. Italia in controluce. Il 29 di marzo è la prima edizione di Italia in controluce per quest'oggi. In studio Daniele Biacchessi. Oggi parliamo delle mille storie dei respingimenti di immigrati dalla Libia che diventano un film. Si chiama Mare Chiuso, l'ultimo documentario di Stefano Liberti e Andrea Segre. Il reportage di Cristina Carpinelli. Si intitola Mare Chiuso. È un documentario che speriamo possa essere trasmesso nelle scuole e nei cinema d'Italia. Mare Chiuso racconta la storia di oltre 2000 migranti africani che tra maggio 2009 e settembre 2010 vennero fermati nel Mar Mediterraneo, portati dalla polizia e dalla Marina italiana verso la Libia. Molti di questi migranti erano scappati dai centri libici. Molti di loro avevano già pagato con torture e stupri per il solo fatto di aver sperato in una vita migliore. Ho lasciato l'Eritrea perché è un paese altamente militarizzato. Il viaggio nel Sahara e poi la via per Tripoli sono stati molto brutti. Tutti quelli che sono stati in Libia sanno come vengono trattati i neri dai libici. Fanno le retate, ti mettono in prigione e lì molte persone vengono picchiate, altre torturate. Ho visto persone morire. Allora ho capito che dovevo fuggire. Volevo venire in Italia per avere protezione e per lavorare. Abbiamo viaggiato, viaggiato, viaggiato. Il documentario di Andrea Segre e di Stefano Liberti è un lavoro meraviglioso che alterna materiale dei migranti, cioè filmati girati coi telefonini, a interviste inedite. L'idea è nata di farci un documentario nella tarda primavera, inizio dell'estate del 2011, quando diverse persone con cui eravamo in contatto in Libia e che erano state respinte, erano in contatto telefonico, si sono spostate verso la Tunisia, verso il campo profughi di Sciuscia. E quindi era possibile andare ad incontrare e farsi raccontare quello che era accaduto effettivamente su quelle navi nel 2009 e nel 2010. Poi abbiamo incontrato altri respinti in Italia, che nel frattempo appunto erano venuti, e poi siamo andati a Strasburgo a firmare l'udienza del processo che poi si è concluso nel febbraio scorso. I filmati fatti dagli stessi migranti con i telefonini sono una fonte di informazione straordinaria da cui non si può prescindere. Noi appunto nel campo di Sciuscia abbiamo raccolto diversi filmati, addirittura quello più importante giornalisticamente è quello dell'intercettazione del barcone dei nostri protagonisti da parte della nave della Marina Militare Italiana, che poi li ha inizialmente soccorsi e poi li ha respinti verso la Libia. Italia in controluce, prima edizione, siamo oggi nuovamente alle 13.30 su Radio 24. Sono le 6:39 minuti e 30 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e adesso parliamo della visita del Presidente del Consiglio, prima in Corea, poi in Giappone e poi naturalmente sarà in Cina, e anche dei riflessi politici che ha tutto questo con le parole dello stesso Monti di ieri, che insomma hanno sollevato più di qualche polemica e più di qualche riflessione. E però vogliamo partire proprio da quello che sta facendo Monti in questo momento in Asia. Ci colleghiamo con Gerardo Pelosi, che sta seguendo il Presidente del Consiglio in questo viaggio inviato al Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Le 13.40 qui a Tokyo, il Presidente Monti si è preso una giornata di pausa, si è recato a Kamakura, a 40 chilometri da Tokyo, dove si trova un importante centro religioso dei buddisti e anche degli shintoisti. Era una richiesta esplicita delle autorità giapponesi di portare il premier italiano in una località turistica, anche per dare un messaggio di speranza a chi vede ancora il Giappone come un luogo pericoloso per la radioattività dopo l'incidente di Fukushima. Stamattina in ambasciata Monti ha avuto un breve incontro con Alberto Zaccheroni, l'ex CT della Juve, del Milan e dell'Udinese, adesso è l'allenatore del Blue Samurai. In fondo, ha detto Monti, sono anch'io un commissario tecnico del paese. Nessun commento invece sulle reazioni dei partiti alle dichiarazioni di ieri, anche se le dichiarazioni di ieri sono state forse un poco estremizzate. In realtà lui voleva dire che il paese è cambiato, il paese sta cambiando e sta costringendo anche la classe politica a modificare i suoi comportamenti. Ma evidentemente il linguaggio di Monti, che è un linguaggio molto da accademico, è stato preso, diciamo, alla lettera, e quindi i partiti hanno reagito. E da Tokyo. No, aspetta Gerardo, aspetta, fermati un attimo, volevamo solo capire invece che cosa accadrà dopo, insomma, dopo, naturalmente non dal punto di vista politico, all'interno di questo viaggio del Presidente del Consiglio, cioè quali sono le prossime tappe. Evidentemente Simone, mi senti? Sì, ti sento ecco. Gerardo, no, volevamo le prossime tappe di Monti. Domani mattina la partenza da Tokyo per Pechino, dove nel pomeriggio incontrerà il presidente del più grande fondo sovrano cinese. A Seul, a margine del vertice sulla sicurezza nucleare, Monti aveva incontrato il presidente cinese Hu Jintao, che gli aveva detto di avere già dato disposizioni precise alle autorità finanziarie, quindi ai fondi sovrani e agli imprenditori cinesi, di tornare ad investire in Italia. E l'incontro di domani pomeriggio nell'albergo Kempinski di Pechino è molto importante per capire quali saranno i comportamenti futuri dei fondi sovrani cinesi. Ricordiamo che subito dopo la crisi finanziaria e nell'agosto scorso il direttore, l'ex direttore generale del Tesoro Grilli, era volato a Pechino proprio per cercare di convincere i fondi cinesi a tornare ad investire in Italia. Vedremo che cosa succederà, quindi si è aperta con buone speranze, almeno da questo lato, dal lato degli investimenti, della possibilità di investimenti stranieri e nella fattispecie cinesi in Italia. Questa visita di Monti, grazie a Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata a voi. E adesso parliamo di calcio, parliamo di Milan-Barcellona, ritorniamo sul partitone di ieri. Dario Ricci, buongiorno di nuovo. Buongiorno Simone. Beh, è uno 0-0 che può essere letto in tanti modi, sicuramente un risultato che torna utile al Milan, che ora si qualificherebbe alle semifinali con qualsiasi successo al Camp Nou ovviamente, ma anche con qualsiasi pareggio con gol, ed è un risultato che obbliga il Barcellona alla vittoria per accedere alle semifinali, ma è anche uno 0-0 che si presta a diverse letture tattiche. Ci aspettavamo un Milan più aggressivo soprattutto all'inizio, invece gli uomini di Allegri hanno sostanzialmente aspettato il Barcellona che nel primo tempo ha avuto parecchie occasioni, e ci è voluto solamente un grande Abbiati per fermare Messi e Xavi. Poi nella ripresa i rossoneri sono andati un po' meglio, anche perché è uscito un opaco Boateng e anche lo stesso Robinho, e alla fine il match è stato un po' più equilibrato, anche se all'ultimo ancora Abbiati ha dovuto salvare su Messi, apparso questa volta un pochino più normale, un pochino più umano del solito, ecco. Prima edizione. Le 6:46 minuti e 43 secondi, ritorniamo su Milan-Barcellona. Allora Dario Ricci, dicevamo, che cosa dobbiamo attenderci dalla partita di ritorno? Che sfida aspettarsi adesso al Camp Nou? Beh, probabilmente il Barcellona farà la sua solita partita e cercherà anche di essere più incisivo su un campo che sicuramente non sarà quel campo di patate che ieri è stato San Siro, assolutamente indegno il manto erboso della Scala del Calcio di una sfida così prestigiosa. Per il Milan bisognerà vedere cosa sceglierà Allegri, certo difficile immaginare far le barricate per 90 minuti o forse anche di più a Barcellona, qualcosa bisognerà inventarsi davanti e chissà che non trovi un po' più di spazio un El Shaarawy che sicuramente ogni volta che scende in campo regala vivacità e pericolosità all'attacco rossonero. Grazie dunque al nostro Dario Ricci, vedremo naturalmente che cosa succederà, grande attesa soprattutto ovviamente dai tifosi milanisti. E veniamo a un altro tema, altra notizia della notte, che è la conclusione della visita del Papa a Cuba. Ci sono state nuovamente parole importanti, oltre all'incontro con molto atteso con Fidel Castro. Katia Caramelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Il Papa sta rientrando ormai a Roma, ma prima di lasciare Cuba ha parlato contro l'embargo, puntando il dito contro le misure economiche restrittive imposte dal di fuori del paese, che, ha detto il Papa, in presenza del presidente Raul Castro, pesano negativamente sulla popolazione. È urgente, ha però anche sottolineato Ratzinger, che nella convivenza umana si eliminino posizioni inamovibili e punti di vista unilaterali. Nel pomeriggio cubano, come dicevi tu, l'atteso incontro con Fidel Castro, mezz'ora di colloquio nell'annunziatura apostolica, cominciato con uno scambio di battute sulle rispettive età, sono infatti entrambi 85 anni. Fidel Castro ha raccontato al Papa di trascorrere il tempo a leggere e riflettere, e così il portavoce vaticano padre Federico Lombardi. Alla fine il comandante Fidel ha chiesto al Papa poi di inviargli qualche libro che potesse essere diciamo interessante per la sua lettura e riflessione sui temi di cui hanno parlato. Io ho chiesto al Papa se aveva già deciso quale libro mandare, mi ha detto no, che ci deve ancora pensare un po'. E di fronte alla domanda di Fidel, lei come fa a svolgere ancora il suo servizio, il Papa ha risposto sgombrando il campo dalle voci di sue imminenti dimissioni: sono anziano, ha detto, ma riesco ancora a svolgere il mio dovere. L'ex capo di Stato è apparso molto interessato a questioni religiose, ha interrogato il pontefice sulla liturgia cattolica e ha anche confessato di aver desiderato molto due beatificazioni, quella di Madre Teresa di Calcutta e di Giovanni Paolo II. In mattinata il Papa aveva invece celebrato la messa davanti a 300.000 persone e aveva ricordato che non c'è libertà se non si rispettano verità e dignità dell'uomo, e quindi Cuba e il mondo hanno bisogno di cambiamenti. Ed è tutto. Grazie anche a Katia Caramelli, un ringraziamento anche a Carmelo Lauricella in regia, Viola Bottone in redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco con il Giornale Radio.